in primo piano. Buongiorno, buongiorno. La rassegna stampa oggi è dedicata necessariamente, visti i titoli, i contenuti dei principali giornali, di nuovo alle elezioni, al post-elezioni, anche se, come avete appena sentito da Alessandro Milan, ci sono anche altri argomenti, l'attualità preme anche dall'esterno e noi ci troviamo di fronte sia al seguito di altri temi politici, penso al referendum fra un paio di settimane, ma anche all'arrivo. Io oggi sono a Roma, la città è blindata appunto per l'arrivo di Gheddafi, però oggi necessariamente il dibattito riproposto dai giornali si concentra sul voto e sul dopo voto. Ed è interessante perché ieri in realtà i giornali si occupavano di quello che emergeva dalle proiezioni per quanto avanzate, circa il risultato delle elezioni europee, e di fatto osservavano sostanzialmente tutto attraverso la lente delle aspettative, perché le aspettative sono importanti, le aspettative sono quelle che poi generano i progetti, definiscono i metri di misura. Per capirci, quell'asticella di cui si parla molto in questi giorni, cioè ogni partito, i principali partiti dicono qual è la soglia oltre la quale immaginano di andare, quella al di sotto della quale considerano invece l'esito una sconfitta. E questo ha fatto sì che ieri molti giornali si concentrassero sulla delusione del Popolo della Libertà, soprattutto perché i programmi, i progetti, gli obiettivi che si era dato Berlusconi erano altissimi, oltre il 40%, il 50% della coalizione, milioni di preferenze personali, il che era evidente non si sarebbe realizzato. Passato però appunto questo primo modo di vedere il voto, associato peraltro alla sorta di sindrome della scampato pericolo, della scampata scomparsa da parte del Partito Democratico, che pur avendo perso molto comunque era al di sopra delle aspettative di nuovo. Ieri sono arrivati non solo i risultati definitivi delle europee, ma soprattutto quelli delle amministrative, e il quadro è cambiato, perché le amministrative sono dati duri, anche le europee, non voti su qualcosa che gli italiani poco conoscono, votano sulla loro amministrazione, sui sindaci, sui presidenti di provincia e quant'altro. È l'Italia che emerge dal voto amministrativo, associata da un'analisi più attenta del voto europeo, ci dice che questo è un paese che di fatto è largamente ormai di destra, e che cioè il centrodestra, che era stato considerato dopo il voto di ieri, o meglio dei giornali di ieri, quasi come non certo sconfitto ma deluso, oggi riemerge in modo molto diverso. Ad esempio, in questo caso partiamo dal giornale, che dalla testata cui fa riferimento questa radio, Il Sole 24 Ore. A pagina 7 c'è un bilancio, è un bilancio abbastanza esplicito delle elezioni amministrative. Primo tempo, infatti era il primo turno, è l'articolo, il bilancio di Eugenio Bruno. Popolo della Libertà batte Partito Democratico 35-20. Al centrodestra 26 giunte provinciali e 9 comunali, ballottaggio in 37 enti. Però per valutare questo dato c'è un bello specchietto che è molto istruttivo. Ci dice che attualmente sui 30 comuni capoluogo 6 sono andati al centro-sinistra e 9 al centro-destra, in 10 in vantaggio il centro-sinistra in vista del ballottaggio, in 5 al centro-destra. Però tenete conto che nei 30 comuni capoluogo In precedenza eravamo 25 a 5, insomma, quindi adesso la situazione, se anche andasse fino in fondo così com'è, sarebbe 16 a 14 per il centro-sinistra, quindi un quasi pareggio, mentre prima era un dominio. Per le province il discorso è ancora più esplicito. Il centro-sinistra attualmente ha vinto in 14 comuni e capoluogo il centro-destra in 26. Entrambi sono in vantaggio in 11, però in precedenza il risultato era nettissimo, 25 a 5 per il centro-sinistra. Quindi il cambiamento è evidente ed ha adito a valutazioni evidentemente di tipo diverso che riguardano i due schieramenti, ma anche i leader, anche il dopo. Ad esempio, ci sono una serie di articoli molto interessanti, io mi limito a citare qualcosa, che si occupano del Partito Democratico. Evidentemente questo voto mette in discussione la leadership del Partito Democratico, il Partito Democratico che è in discussione più o meno dalla mattina dopo che è stato fondato. Pierluigi Battista sul Corriere della Sera lo dice in modo esplicito nel titolo: Partito Democratico, tempo scaduto. E all'interno di questo editoriale rammenta le diverse linee politiche non vengono allo scoperto, i maggiorenti del partito imprigionati nel loro ruolo di eterni padri nobili si consumano nel tatticismo e nel gioco incrociato delle candidature. Sulla prospettiva delle alleanze il buio è totale nella lacerante incertezza se guardare al centro, alla sinistra oppure se restare immobili. In realtà che ci sia una partita molto aperta lo vediamo da molti articoli, ad esempio, e da molti giornali. Ce n'è uno che fa riferimento esplicito, data la sua ispirazione, al Partito Democratico, che è La Riformista, dove un interessante specchietto a pagina 6, oltre a fare una rassegna su alcuni dei protagonisti del Partito Democratico, la nota ormai Deborah Serracchiani, giovane che ha battuto nel Friuli per numero di preferenza Berlusconi, c'è in seguito Filippo Penati che dice non si vince coi salotti, il Partito Democratico ascolta i territori e cerca nel suo ballottaggio con Podestà in provincia di Milano l'accordo con la Lega. C'è poi Zanonato, a Padova perde la Lega, trionfa il decisionismo, e c'è Emiliano. Ma soprattutto c'è uno specchietto, come vi dicevo, che già presenta gli schieramenti in vista della prossima competizione congressuale d'autunno. Vediamo già che ci sono tre possibili soluzioni: Franceschini, Bersani e un terzo incomodo. Quali sono gli schieramenti? Con Bersani, D'Alema, Emiliano, Prodi, Del Bono, candidato di Bologna, Bindi, Vasco Errani, Penati e Letta con punto interrogativo, perché lo troviamo anche in seguito. E invece con Franceschini, la Serracchiani, Chiamparino, Fassino, Verini, Marini, Tonini, Fioroni, si parla di Veltroni. E poi c'è quelli del terzo incomodo, chi? Parlano di Letta, potrebbe essere anche lui, e poi di nuovo Bettini, Renzi, il candidato di Firenze, più i quarantenni. Come vedete già si parla del dopo e si occupano in molti anche di questa ipotesi, di questo problema. La Repubblica, che conosce bene il Partito Democratico, essendone uno dei quotidiani di riferimento, presenta una attenta, accurata ricostruzione di Massimo Giannini e D'Alema affila le armi. Peraltro vi rinviamo anche a un'analisi del voto, più che altro perché ci sono delle tabelle, delle matte interessanti e una molto esplicita che ci dice come esce l'Italia del voto europeo dopo, cioè su base provinciale. Il primo partito delle province italiane è sostanzialmente così distribuito, vede così la geografia italiana. Primo in 76 province il Popolo delle Libertà, primo in 26 province il Partito Democratico e in 6 la Lega Nord. Basta questo dato per dire anche come questo paese sia fortemente spostato a centrodestra. Vi dicevo di D'Alema, il quale dice in modo esplicito in questa sorta di ricostruzione, dialogo fatta da Giannini, la tentazione di D'Alema, questo partito va ricostruito, guerra tra i leader, rispunta il centro-sinistra col trattino. Cos'è il centro-sinistra col trattino? È quello dove di fatto non c'è più un unico partito, ma ci sono due schieramenti. Eccolo qua. C'è uno schema dietro questo azzardo che un minimo di logica pure negativa ce l'ha. Un partito democratico con l'impronta dalemiana sconta per il partito democratico il peggiore degli scenari, cioè la diaspora dei centristi, la fuoriuscita di una costola democristiana del partito democratico, Letta, Rutelli, Fioroni, Follini, eccetera. Che darebbero insieme a, che darebbero vita insieme all'UDC di Casini una nuova formazione, cioè la nuova formazione centrista invece dovrebbe mettere in piedi una cosa bianca con l'obiettivo di trovare un accordo con l'UDC per impedire che Casini sia risucchiato prima o poi inevitabilmente dal nuovo abbraccio. Questa è sostanzialmente una delle conseguenze del dibattito successivo al voto, cioè che si ripercuote oggi direttamente all'interno del Partito Democratico. Vedremo nella seconda parte di questa rassegna stampa come la questione si ripercuota anche all'interno dei rapporti tra Lega e Popolo delle Libertà. E proseguo con il discorso che ho cominciato poc'anzi sull'esito del voto. Prima mi sono dedicato sostanzialmente ai commenti che riguardano l'impatto interno al Partito Democratico. Adesso però vediamo un po', perché in realtà c'è anche un evidente impatto e conseguenza all'interno del centrodestra e soprattutto nel rapporto tra la Lega e il Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà ha avuto 35%, si attendeva di più, magari non aveva ragione di attendersi di più, però questo era il proclama del suo leader, per cui una certa delusione può esserci. Si riprende notevolmente dopo gli esiti delle amministrative, ma soprattutto è la Padania che cambia, che canta giustamente vittoria. La Padania, tutta la prima pagina, l'esercito di Bossi, 261 sindaci che vengono elencati, cioè già eletti all'interno, intanto fa una rassegna, le nuove province conquistate, Biella, Cuneo, Bergamo, Brescia, Lodi, Sondrio, i borgomastri padani vincenti al primo turno e più l'esercito di Umberto Bossi, 261 sindaci che partono da Rizzotto di Altivole in provincia di Treviso, dove vengono ottenuti 55% dei voti, ma poi che so, a Gorgo, in provincia di Treviso, 100% dei voti a Fermino Viattori, immagino non si tratti di una grande, di un grande comune, però il 100% fa sempre paura, impressione da leggerlo, anche probabilmente era magari l'unico candidato, come Renzo Clerici a Camai Grago in provincia di Lodi e via di questo passo. Però la Padania dà conto anche di un'altra conseguenza di questo voto, cioè il referendum, l'accordo tutto sommato tra Berlusconi, che in precedenza aveva dato un parere quasi positivo sul referendum e Bossi contro il referendum. Referendum, fregatura da non votare, titola la Padania. E Cotta annuncia non si deve ritirare la scheda referendaria e via di questo passo. E ci sono modi diversi, evidentemente, di leggere questo aspetto. Ad esempio, alcuni giornali, soprattutto di sinistra, insistono molto. C'è una foto sul Manifesto con Bossi o meglio Berlusconi che sorride con la spalla, con la testa sulla spalla di Bossi, sul carroccio del vincitore, oppure Liberazione, sempre in prima pagina, legato, cioè con Bossi che tiene legato appunto Berlusconi, o Grana Padano sull'Unità. Invece vi segnalo sul giornale un interessante articolo di Angelo Mellone, del politologo Angelo Mellone, come evitare la trappola del carisma, dove l'osservazione di Mellone è sul problema del Popolo della Libertà che a confronto della Lega si presenta come un partito ancora senza radici, importante ma fondato solo sul carisma. Ecco, dice Mellone, come insegna il Carroccio, contano la militanza, sezioni capillari e un'agenda concreta. Sono due modi di concepire, di percepire il territorio: un territorio reale, quello della Lega, un territorio virtuale, comunicativo e i media. Un'ultima soltanto nota, che troviamo, che in questo caso trago dalla Stampa, in prima pagina: Napolitano, giudici, basta protagonismo, presidente al CSM, serve una seria autocritica, e di questo discuterete voi, anche a quanto ho sentito in seguito, e si discuterà ancora, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Buongiorno a tutti.